Cosa penserai di me? Di quello che c'è stato ieri, ma cosa penserai di me? Leggo nei tuoi pensieri che forse è solo amore questo batticuore, e cerco l'occasione per guardarti un po'. Ma cosa penserai di me? Che sono qui ad immaginare la mia vita insieme a te, e non sarebbe male. Tutte le persone hanno un batticuore, se segui il ritmo amore arriverai da me. Parlami un po' anche di te, di quello che fai, domani dove sarai. Parlami un po' anche di te, se hai giorni liberi, credi ai miracoli, perché il mondo è così piccolo. Cosa penserai di me? Che sono un uomo in mare, ma cosa penserai di me? Mica mi vuoi sposare? Forse proprio amore, la terra intorno al sole, la gioia ed il dolore in questa vita qua. Everything we do, everything we see, we do for.